Buonasera a tutti e bentornati sulle frequenze di Railroad Radio Station. Sullo streaming, questa è Uptown Rockers, settima puntata. Al microfono, come al solito, il vostro DJ Drago. E per questa sera, visto che la città della Torre Pendente in questi giorni è stata imbiancata da una vera tempesta di neve, andiamo un po' al caldo e ascoltiamo un po' di ritmi reggae direttamente dalla Giamaica, una foundation eccezionale. Sto parlando di Armageddon Time, cantata da Willie Williams nello studio di Sir Todd Coxon. Supper tonight. A lot of people going to suffer tonight. Cause the battle is getting hotter in this iration. It's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight. So a lot of people going to have to stand up and fight. But remember to praise Jehovah, and Jesus will guide you in this iration. It's Armageddon, tonight. Said a lot of ones gonna run and hide tonight. Cause it's your action, you must get your fraction in this iration. It's Armageddon. A lot of people won't get the supper tonight. Said a lot of ones won't get no justice tonight. I say, but remember to praise Jehovah, and He will guide you. Bene, Willie Williams direttamente dallo studio One di Kingston Town, e questa è una puntata che dedicherò interamente alla musica in levare, influenzato dal giovedì scorso dove felicemente sono stato ospite come in giuria della Black Cup, una competizione tra crew di reggaettari che si è svolta in quella dell'X-Wide a Pisa. E, tra l'altro, una gara molto agguerrita che ha visto uscire vincitore Paparina direttamente dal Lecce, dal Salento, un po' alla nostra Giamaica in Italia. E andiamo subito avanti, sempre con un sound giamaicano. E sto parlando di Donna e Altea con il pezzo dal titolo Top Ranking. Questa volta alla produzione troviamo Duke Reed, un antagonista sempre in competizione con Coxon, e questo pezzo è molto bello, molto caldo, quindi potete tranquillamente spengere i termosifoni e iniziare a ballare. Questa è musica in levare, questa è Uptown Rockers, a voi Donna e Altea. Give me a heart attack. Donna e Altea, questo è un restyling di questa rhythm datata 1995, ma l'originale, la canzone originale è ben antecedente, forse anche un decennio prima. E comunque, mentre alcuni miei amici passeggiavano nel quartiere londinese di Ladbroke Grove, dalla finestra uscivano dei ritmi dub un po' strani, un po' un rabadab style. Sto parlando di Under Pressure del signor Supercut, un pezzo del 90, dell'84, scusate, che diciamo sanciva un po' quasi la fine delle foundation dei pezzi roots originali, e andava ad iniziare quello stile che sarà chiamato ragamuffin. Ma non voglio levarvi spazio, non voglio togliere spazio alla musica con le mie parole. Comunque anche qui in casa mia già si sta ballando, la dancehall è già in atto. E fuori fa freddo, ma qui la temperatura è già salita oltre i 40 gradi. Oltre ad Under Pressure di Supercut, subito dopo Boneman Connection di Nicodemus, pezzo super giù di quegli anni anche questo. E tra l'altro ho letto in un libro, Last Night DJ Saved My Life, un libro molto bello, che questo pezzo veniva anche messo nelle serate del Greenwich Village, quindi anche Larry Levan usava questo pezzo reggae, non so se lo metteva proprio a questa velocità. All the songs will be a special dedication to the world and its life. We can't take the bus and fight. With your black, purple, blue or white, let's get together and all unite. Oh, you mean? Ribbidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi. Ribbidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi. Ribbidi-bidi-bidi-bidi-bidi. Ribbidi-bidi-bidi-bidi-bidi. Easy, miss, I can't you want it done. Yes. Easy, miss, I can't you want it done. Yes, we're going to sting them like a bees and bite them like a scorpion. Anywhere we pass from here, the mic magician, we call it under pressure the world, under pressure to the friend, under pressure the world, under pressure to the mother, under pressure the world, under pressure to the leaders of the world, and them are fighting power. And I wanna them I say him control America, the next one I say him rule in Russia, and I wanna them I say him control China, the next one I say him control Cuba, wanna rule. Libya, one rule Uganda, but me say gunshot a bus up in a Nicaragua, and I every day them get up training like a gorilla. Gaddafi a the leader, me say down a Libya. Him not afraid of Ronald Reagan, no a run America. 'Cause if them start the war up here, nuclear power. But every day them get up fighting like a gorilla, and fighting for the world we controlled by Jaja. But me ask you a question, me want an answer. Say where is the throne of Addis Ababa? Me say down Africa, down in Ethiopia. And some say Jah dead and they don't want no water. But when them don't give it to a prime minister, I give a president or a year a leader. If a guy touch the tune, just set him soul on fire. Come and take it from the cat, the beer back rider. We call it under pressure the world, under pressure to the mother, under pressure the world, under pressure to the father, under pressure the world, under pressure to the father, under pressure the world, under pressure to the leaders of the world, and them a fight for power. And every day them get up living like a gorilla. I say million has been up on the nuclear power, and all over the world poor people are suffer. But away them don't take the money feed suffer. Come take it from the cat, the bear back rider. You know here we are going down in South Africa. Poor people was killed by fly and mosquito. And I listen, me say cat a murder me charge for. Me say Africa the land of the black structure. But the white man invade and rip off with silver. Yes, them take off the gold and make up a grand dollar. And every day them have the black man under pressure. What you call it? Under pressure the world, under pressure to the mother. Under pressure the world, under pressure, yes. Under pressure the world, under pressure. We say we be the nobody, we be the nobody. Jawbone connected to me collarbone. Me collarbone connected to me chest bone. Me chest bone connected to me ribs bone. Me ribs bone connected to me spine bone. Me spine bone connected to me leg bone. Me leg bone connected to me knee bone. Me knee bone connected to me ankle bone. Me say me ankle bone connected to me toe bone. Me toe bone connected to me toenail bone. What a holy pa bone. Come let me tell you, me skin, flesh and bone of me own. Jaman say Nicodemus have fi mash it and go home. But some of them attack bout me here one coma. Me dash the 20 scissors and me broke up 40 coma. So one thing I left off in me here figure coma. Jaman in a the bone man connection. Come let me tell you, this a bone man connection. But watch a man, say one, say two, operator that are you. I want you fling with part one, come let me give them part two. Say girls like you, me so demons pass you. Now the bone man connection. Yell jaman me come fi nice up the nation. But watch a man. Say if you keep a session and you want it for ram. Say make sure Nicodemus have the mic in a man. Say make sure put me name on this radio station. Nicodemus too important. Jaman me come fi nice up the nation. But watch a man. Me say one, say two, you fi buckle your shoe. Me say three, me say four, me you go give. Under Pressure e Boneman Connection, bellissime song del periodo ragamuffin del reg. Ma ritorniamo un po' indietro negli anni e andiamo ad ascoltare ora un altro pezzo in levare, un pezzo che però si rifà alla musica funk degli anni 70. Sì, perché dobbiamo anche imparare una cosa, che tanti gruppi reg dell'epoca ascoltavano un sacco di musica americana, la musica jazz, il funk che si faceva avanti con James Brown, e difatti questa è una cover di James Brown. Sto parlando di Popcorn, rifatta dal gruppo di Lee Perry, i mitici Upsetter, e qui ristampata nel catalogo Trojan nel 95, anche se il pezzo originale è del 70. Andiamo a sentire Popcorn, e dopodiché un altro cameo di Lee Perry, e questa volta una sorpresa, perché sentirete dopo con chi se la fa il mitico Lee Perry. Senza di lui forse il reg non sarebbe stato tale. Thank you. sempre Uptown Rockers, sempre sintonizzati su Railroad Radio Station e sempre con Drago DJ. Bellissimo il reggae mischiato con il funk, i ritmi le varie, con il cadenzato e l'incalzare della batteria funky. E questi erano gli Upsetter, un gruppo che si rifaceva anche un po' al genere western, agli spaghetti western di Sergio, il nostro Sergio Leone. Difatti il disco in questione si intitolava Eastwood Ride Again e si notava in copertina un cowboy giamaicano con una pistola in mano e un sigarone in bocca. Bene, passiamo ora oltre al prossimo pezzo. E un altro king del reggae, sto parlando di Jimmy Cliff, che qui esegue I Can See Clearly Now, un pezzo non suo, che metteremo, come abbiamo fatto prima con Under Pressure e Boneman Connection, in sequenza con una song di Johnny Nash. Johnny Nash è un artista, penso americano, che però faceva delle ottime canzoni reggae e anche delle commistioni come quella che abbiamo sentito prima degli Upsetter, quindi con il funk, il soul. Difatti il pezzo che esegue Jimmy Cliff è un pezzo scritto da Johnny Nash e abbiamo deciso appunto di metterli in sequenza. E qui in regia già si respira l'aria giamaicana di altri tempi, degli anni 70, quella più roots, più vera. E ecco a voi Jimmy Cliff. Gone are the dark clouds that had me blind. Broadway. It is on Broadway. Niente paura, il ghiaccio si è già sciolto, potete circolare tranquillamente per le strade del centro città, ma se mi state ascoltando vuol dire che siete sintonizzati su Uptown Rockers e siete davanti al vostro PC. Questo era Johnny Nash, una splendida versione di Rag on Broadway di Bob Marley, tratta dal disco Tears on My Pillow. Johnny Nash qui accompagnato da un super gruppo, perché nelle note di copertina vedo che alla chitarra vi è niente po' di meno che Bobby Womack, alle tastiere Herbie Hancock, alla tromba Hugh Masekela, mentre ai cori trovo una sempre giovanissima Betty Wright. Il disco era datato 75 e per questo disco devo ringraziare un mio carissimo amico il Pezzone, perché me lo portò proprio lui dall'Olanda. Bene, adesso siamo giunti alla sorpresa di cui vi parlavo prima, una commistione, un mix, una combination di quelle che mi piacciono tanto a me. Sto parlando di Lee Perry con i Beastie Boys, sì, proprio con il gruppo rap dei Beastie Boys. E niente, poi visto che siamo vicini al Natale e l'ora si è fatta tarda, cioè la nostra oretta si sta quasi concludendo, dopo avremo sempre il solito mixatone. E a questo giro non so ancora di chi, perché me lo dovrebbero portare tra pochissimi istanti. Ricordo che nella scorsa puntata avevamo avuto il mixato di La Nozione del Tempo, e cioè di DJ Darius e Fabio Anti. E bene, ma ora ascoltatevi Beastie Boys con Lee Perry. Vedi vai si come more clear. Clear more clear. Jungle, jungle. Merlin Production Company. Blackhawk International Branch. Present. I've been going around. Have you seen Mr. Brown? I've been going around the town. Have you seen Mr. Brown? Whispering voices. Whispering voices. Silver and gold. Silver and gold have I none. But in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk, rise up and walk, rise up and walk, rise up and walk. A weeping time. Weeping time and weeping time. Weeping time and creeping time. kush and cigarette. Can't live weed and ganja, marijuana, lungs bread. So rise up and walk. Rise up and clap. Rise up and hap. Rise up and lift up your cap. Fire from the sky. And weave your time. Weave your mind. Reaping time, reaping time. Harvest, harvest time. You reap what you sow, I reap what I sow. Coming up from underground. We're even time. INRI production that takes over France. With voodoo dance and science art, science machine and science dream. This is a living dream from the Beastly Brothers and the Beastly Boys with their beastly toys. They give you some beastly joys to put on your beastly drawers. Una vera pazzia questo pezzo. Lee Perry non si smentisce mai qui insieme ai Beastie Boys nel disco Hello Nasty. Il pezzo si intitolava Dr. Lee, tratto proprio dal disco di cui vi ho detto il titolo prima, una produzione Beastie Boys con Mario Caldato del 1998. E Lee Perry è tuttora in attività, è uscito il suo ultimo disco insieme a Adrian Sherwood, un altro guru del dub. Ma visto che siamo vicini al Natale, anzi fra un paio di giorni, sarà il 25 dicembre, e ho deciso che vi regalo anche un altro pezzo reg dalla mia collezione. Sono andato a scovare uno dei miei artisti preferiti, sto parlando di Max Romeo, che qui esegue Chase the Devil, un pezzo che voglio dedicare a tutti gli amanti del dub, perché senza il dub non ci sarebbe quest'oggi il filone dubstep, che va tanto di moda ma che è anche molto bello. E dopodiché un pezzo natalizio, a sorpresa anche questo, e quindi il mixatone che ancora non si sa chi lo eseguirà, chissà se sarò io o qualche selecta della zona. Starete a sentire voi, anzi continuate ad ascoltarci. Questa è Uptown Rockers, siamo arrivati alla settima puntata. E sempre su Railroad Radio Station, questo è il programma più hot della Leaning City, e a voi Chase the Devil con Max Romeo. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Max Romeo, Chase the Devil, e dopo il diavolo ecco l'acqua santa, sì, perché il pezzo natalizio di cui vi parlavo prima vede fra i suoi interpreti il reverendo Run, il mitico DMC e Jam Master Jay, perché il pezzo in questione è prodotto dai Run DMC e Rick Rubin nel 1987, si intitola Chrisman in Hollis, e questo è il pezzo con cui vi auguro buon Natale e chiudo questa trasmissione. Prima però vi ricordo un appuntamento imperdibile per questa settimana. Sto parlando della vigilia di Natale il 24 di dicembre, presso i locali della Centrale, il club a La Fontina, poco fuori da Pisa. Troviamo una serata veramente clou, una serata clou per questo Natale, perché due crew che si incontrano insieme, sto parlando di 24 Hours Sleepy People e Black Friday, che ci regaleranno sicuramente delle ottime vibrazioni per ballare, per stappare una bottiglia di spumante tutti insieme. E questo è tutto per questa serata, per questo programma, e ci vediamo come al solito dopo le feste, e intanto ascoltatevi questo pezzo con le renne e Babbo Natale. Ciao a tutti da Drago e Uptown Rockers. Time is now.